Parliamo di lavoro con INAPP. Come già da mercoledì scorso, i nostri ascoltatori abituali lo sanno, il nostro mercoledì del lavoro, Parliamo di lavoro, si arricchisce per un buon numero di puntate di questa collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Attive, delle Politiche Pubbliche, INAPP, con due P finali. Il sito è www.inap, sempre con le due P finali, .org, e Sebastiano Fad, il professor Sebastiano Fad, è il suo presidente, che abbiamo il piacere di ospitare questa mattina qui a Due di Denari. Benvenuto, professor Fad. Buongiorno, grazie anche a lei. Grazie. Professore, noi vogliamo discutere un po' con lei di un tema che le è caro, tanto che ieri ne ha parlato anche sul Sole 24 Ore, e cioè lo smart working, che è un po' il tema del 2020, verrebbe da dire. Innanzitutto, io so che lei è abbastanza sempre critico quando qualcuno, come ho fatto io ora, le dice parliamo dello smart working che abbiamo fatto nel 2020, perché subito lei, diciamo, vuole precisare che forse non abbiamo fatto esattamente dello smart working. Sì, è vero questo. Anche se molti già ormai dicono, ma spesso lo ripetono come fossero pappagalli, che il telelavoro non è lo smart working, e poi però non traggono le conseguenze, è vero che c'è stata questa confusione. In realtà ciò che si è avuto nel periodo del lockdown è stato uno semplice trasferimento delle mansioni che prima venivano svolte in presenza, un trasferimento a domicilio. Ecco, quindi noi stessi abbiamo fatto come INAPP delle indagini sulla telelavorabilità di certe professioni, cioè la possibilità di trasferire a domicilio l'esecuzione di mansioni che prima venivano svolte in presenza. Ma questo non coinvolge minimamente una riorganizzazione del lavoro, non coinvolge una riformulazione dei processi produttivi, una scomposizione dei processi per modificare le fasi di lavorazione sia nella produzione di servizi che nella produzione di beni, e quindi individuare funzioni e fasi che sono svolgibili a distanza e funzioni e fasi che sono svolgibili in presenza, né come combinarle queste, né in un'ottica di raggiungimento di un risultato specificato per fasi che conducono alla produzione finale. Quindi il telelavoro, che è ciò che veramente è avvenuto nel periodo del lockdown, però ha aperto la strada, ha avuto un vantaggio, perché ha aperto la strada, o meglio ancora ha allargato la strada che conduce alla possibilità di riorganizzare i processi produttivi tenendo conto delle possibilità che le tecnologie offrono ora per ridisegnare complessivamente i processi produttivi. Quindi sicuramente non si tornerà al lavoro come prima, perché questa combinazione di telelavoro e di apertura di prospettive dello smart working porterà necessariamente ad una riformulazione dei processi che torna a vantaggio sia dei lavoratori sia delle imprese. Quindi ecco, a proposito di imprese, presidente Fad, sicuramente l'approccio nuovo che abbiamo dovuto adottare la scorsa primavera, nostro malgrado, sicuramente è stato un approccio che è stato sorprendentemente ben accolto anche da tutte quelle imprese, magari anche dalle più piccole, che mai avrebbero immaginato di poter consentire al proprio personale di lavorare secondo questa modalità. Quindi, diciamo, a parte il fatto che andrà disciplinato un po' meglio, dovremmo venire fuori dallo stato di emergenza procrastinato continuamente dallo Stato per tutte le ragioni che poi magari tra poco torneremo a spiegare, ma certamente qualche azienda che non avrebbe mai pensato di poter lavorare in questo modo, di consentire al personale di lavorare in questo modo, difficilmente tornerà indietro. Quindi effetti benefici sicuramente anche da questo punto di vista, se vogliamo un po' culturale, no? Ci sono stati? Sì. Beh, diciamo che è stata una frustata che ha anche risvegliato le imprese e ha portato alla conoscenza di possibilità di utilizzare la forza lavoro in una maniera diversa, che è reciprocamente vantaggiosa, perché si possono individuare i vantaggi per le imprese e i vantaggi anche per i lavoratori, perché qui si verifica proprio un caso di convergenza degli interessi, perché tutte e due le parti, diciamo, sociali hanno dei vantaggi se questi processi produttivi sono riorganizzati in maniera ottimale, e tutti e due percepiscono i vantaggi. Quindi questo è sicuramente questa è una prospettiva dalla quale non si tornerà indietro, insomma, non si inverte. Su questo noi, non c'è dubbio. Certo, ne abbiamo parlato tantissimo di smart working da quando praticamente è partita l'emergenza. Le aziende hanno consentito appunto ai lavoratori di lavorare a casa nel telelavoro che noi abbiamo, a cui abbiamo dato una dignità nominativa appunto diversa, chiamandolo smart working. Oggi magari molti ascoltatori che continuano a lavorare con questa modalità per l'appunto possono darci, se vogliono, una regalarci una riflessione diversa rispetto a quella che magari potevano esprimere tra marzo ed aprile. Allora raccontateci, se l'azienda vi sta ancora consentendo di lavorare in questo modo, qual è il vantaggio secondo voi, oppure lo svantaggio dello smart working? Sicuramente, come già succede, chiameranno delle mamme. Oggi i bambini per fortuna sono a scuola, nei mesi passati invece c'era il tema dell'affollamento familiare che rendeva un po' critica questa dimensione. Però a prescindere da questo, i bambini sono tornati a scuola e oggi questo stato è diventato il vostro stato stabile. Cosa ne pensate? Vantaggi e svantaggi di questa modalità di lavorare? 800 24 00 24 è il numero verde che, se volete, vi consente di condividere il vostro pensiero con noi. Oppure 349 238 6666 se volete mandarci un messaggio SMS o un messaggio via WhatsApp. Presidente Fadda, al 15 ottobre si uscirebbe, però probabilmente verrà prorogato, ma adesso teniamo buona questa data che è ancora quella ufficiale, si uscirebbe dallo stato di emergenza che consente un ricorso al lavoro agile, al telelavoro, al lavoro da remoto, un ricorso facilitato. E lei più o meno diceva prima, insomma, abbiamo, con questa frustata che abbiamo ricevuto, però abbiamo quasi anche accumulato un po' un'esperienza, un patrimonio di esperienze. Ma allora come dobbiamo intervenire, come dovrà intervenire il regolatore, il legislatore, per non disperdere quello che inconsapevolmente ci è toccato di guadagnare? Sì, se il legislatore interverrà entro il 15 ottobre è una questione aperta. So che c'è una istruttoria, ci sono consultazioni tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro per vedere come intervenire, ma non so quando questo processo istruttorio si concluderà. Il 15 ottobre potrebbe succedere o che non ci sia nessun intervento legislativo e quindi si ritorni alla situazione precedente, caratterizzata dalla adozione del telelavoro sulla base di contratti individuali, che sono, non hanno niente a che vedere con lo smart working, e sarebbe la cosa peggiore. Oppure può darsi che si rinvii ancora la decisione di intervenire, oppure si intervenga direttamente. E l'intervento dovrebbe essere però non un intervento che imponga delle rigidità, a mio parere dovrebbe essere un intervento che, sulla base del confronto e delle intese tra datori di lavoro e lavoratori, definisca una cornice di principi fondamentali, di modalità di base che debbano essere rispettate, e però all'interno di questa cornice sia demandata alla contrattazione collettiva nelle singole aziende la definizione delle modalità di riorganizzazione del lavoro, perché le modalità sono, come si può dire, ferme specifiche, sono specifiche per ciascuna impresa a seconda del prodotto, a seconda della dimensione, a seconda delle tecnologie adottate. Quindi ci potrebbero essere procedimenti di riformulazione dei processi di produttivi di produzione e così via. Quindi dovrebbe esserci una cornice di principi fondamentali e di condizioni fondamentali da rispettare, all'interno della quale si dovrebbe negoziare, ci si dovrebbe confrontare in un'ottica collaborativa e reciprocamente vantaggiosa in sede, nelle sedi sedi aziendali. Direi di sì. Quindi, insomma, questa legge anche, cioè, è molto recente, mostra già un po' l'impianto, un impianto vecchio, un impianto che va adeguato. Non avevamo capito bene forse che cosa avevamo di mira quando si è legiferato sullo smart working, sul lavoro agile, così è la dizione normativa, qualche anno fa, soltanto pochi anni fa. Adesso abbiamo un'esperienza da mettere a frutto. Questo è un po' il senso, professor Fadda. Sì. Ci sono già aziende che hanno praticato, insomma, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, quindi un po' di esperienza c'è in questo campo, accumulata. accumulata da parte delle imprese. Certo, non si può dire il 50% deve essere lavoro a distanza, il 40% o il 30%. Ecco, questa rigidità non hanno senso, perché la quantità di funzioni che possono essere svolte a distanza dipende da come viene organizzato il lavoro e quali sono le funzioni da svolgere, quali sono gli obiettivi. Quindi su questo ci vuole flessibilità. Allora, un ascoltatore chiede: parlate anche degli innumerevoli svantaggi, vorrei che li argomentaste un po' meglio, perché magari quelli che possono essere svantaggi per me, che ho praticato lo smart working da marzo ad ora, a fine agosto praticamente, a parte qualche rara eccezione in cui sono tornata in ufficio, sono sicuramente diversi rispetto a quelli che operano in altri comparti. Peraltro mi chiedevo, Mauro, adesso ti faccio lanciare la tua rubrica preferita della giornata. Ma se io so che è praticamente impossibile, ma ammettendo di vivere in una famiglia che non ha nessuna dotazione tecnologica in casa, perché è da un momento all'altro deve mettersi a lavorare in casa per l'appunto, e l'azienda deve anche impegnarsi e fornirgli tutta la strumentazione, tutti i device, come li chiameresti tu? Guarda, facciamo così, ascoltiamo prima il traffic poi parliamo dei devices con il presidente Fadda. Un attimo, presidente Fadda. Dove eravamo rimasti? Guarda, facciamo un riepilogo. Innanzitutto, il professor Sebastiano Fadda, che è il presidente INAP, quindi parliamo di lavoro con INAP, in questo caso parliamo di lavoro con il presidente INAP oggi. Il sito è www.inap.org. E la cosa importante che diceva prima il presidente Fadda, tra le altre cose, era proprio che bisogna andare a verificare il tipo di mansioni. Mi viene in mente che nella prima puntata di Parliamo di Lavoro con INAP ci siamo occupati dell'Atlante del Lavoro, che è sul sito INAP e che appunto fa una suddivisione delle varie lavorazioni, delle varie mansioni, delle varie attività che sono comprese. Quindi questo potrebbe essere già uno spunto per il legislatore per disegnare quella famosa cornice di cui ci ha parlato il presidente Fadda. Presidente, ci siamo lasciati però con queste sollecitazioni di qualche ascoltatore, non nuove devo dire, ci arrivano tutte le volte che ci occupiamo di questo tema, anche sugli svantaggi dello smart working. Di solito, volendo riassumerle, si lamentano e ci lamentiamo della mancanza degli orari ben definiti, per cui non si capisce bene se poi allora il sabato, la domenica, la sera, la mattina presto, comunque essendo magari da casa si può e si deve lavorare. In genere è la giornata che non finisce mai, puoi anche più o meno sapere quando inizia, ma sul visualizzare il termine è un po' più complicata la faccenda. E la dotazione che l'azienda deve mettere a disposizione. Allora, in termini generali, come possiamo impostare questo problema, professor Fadda? Beh, allora, diciamo che svantaggi potenziali possono esistere su entrambi i lati. Ecco, lasciamo anche gli svantaggi potenziali per le imprese, che sono la difficoltà a coordinare il lavoro, come verificare il raggiungimento per fasi, obiettivi, insomma c'è qualche problema anche da risolvere su quel lato. Dal punto di vista dei lavoratori, è certo, lo straripamento dell'orario lavorativo è qualcosa che molti hanno sperimentato e che è stata denunciata. Bisogna dire che è stata denunciata anche da qualche parte una condizione opposta, cioè il fatto che si fosse, no, qualcuno ha parlato di vacanze pagate col telelavoro, ipotizzando una riduzione dell'ammontare di lavoro, però invece è più probabile l'altro rischio, quello che ci sia uno straripamento e che praticamente uno non riesca ad isolare i momenti in cui è tenuto a svolgere una prestazione lavorativa dai momenti invece in cui è libero a dedicarsi alla vita privata. Questa è una questione che va definita in termini ancora maggiori però di quella che tradizionalmente viene considerata, che è quella definizione di disconnessione, insomma diritto alla disconnessione. Anche qui c'è flessibilità e ci sono modelli sperimentati che fanno riferimento a regole diverse, perché ci può essere una concentrazione del tempo dedicato per svolgere le funzioni a distanza in alcuni giorni della settimana e restano alcuni giorni liberi, oppure ci può essere un, come si dice, core hours, un nocciolo duro di presenza in cui deve essere garantita la connessione e invece tutto il resto è a discrezione del lavoratore purché produca un risultato. Quindi, aspetta, perché questo è interessante, professore. Cioè, delle praticamente lei dice garantire che in certi orari comunque ci sia una disponibilità continua del lavoratore. Ecco, sì. Per esempio, si può dire da mezzogiorno alle 2 o dalle 11 all'1 ci deve essere una connessione, perché ci sarà un momento di verifica. L'organizzazione del lavoro presuppone anche una convenzione, un incontro di gruppo, appunto. Per tutto il resto, se c'è un compito da eseguire, qui l'ottica è sempre quella del risultato, no? Dell'obiettivo e del risultato in relazione agli obiettivi, non quello delle ore impiegate. Si può dire questo obiettivo, il lavoro necessario per conseguire l'obiettivo che mi presenterai domani o da 2 giorni in quell'orario fisso, te lo gestisci tu. Se vuoi ti lavori la notte e il giorno lo impieghi in un altro modo. Cioè, ci sono possibilità diverse di articolare la durata della connessione. Oppure possono essere concentrate appunto in turnazioni, 6 ore un gruppo di lavoro sta connesso e 6 ore un altro gruppo, ma questo fa parte della pianificazione del svolgimento dello smart work, che è una cosa complessa, che è una cosa che richiede capacità manageriali elevatissime e capacità anche da parte dei lavoratori di contribuire a strutturare l'organizzazione del lavoro sulla base delle loro esperienze, sulla base di ciò che verificano, delle criticità che verificano in maniera progressiva nello svolgimento dell'attività, che può essere sempre migliorata. Cioè, lo smart working dovrebbe essere un processo evolutivo, non rigido, che consente di migliorare sempre l'organizzazione del lavoro e di migliorare i vantaggi acquisibili sia per le imprese sia per i lavoratori. In tutta, professor Fad, in tutta la gamma, tra l'altro, di vantaggi e svantaggi che potremmo continuare a così elencare a lungo, sicuramente ce n'è anche uno molto importante, che è tutto il risparmio prodotto per la gestione degli edifici e conseguito da parte delle aziende, perché chiaramente facendo lavorare tutti da casa, ovviamente non si telefona, non si accende la luce, e tutto questo sta portando anche a una riorganizzazione di molti edifici. Io ho moltissimi amici che adesso, quando magari settimanalmente hanno questi modelli ibridi, devono tornare a lavorare in ufficio, lo fanno 1 o 2 volte a settimana, devono preventivamente prenotare la scrivania, perché non hanno più neanche quella fissa di un tempo, e quando parlo di un tempo parlo di febbraio scorso. Quindi c'è anche questa evoluzione. Certamente il problema della riorganizzazione degli spazi fa parte della riorganizzazione dei processi produttivi. Gli spazi, le stanze, le scrivanie non dovrebbero essere più assegnate alle persone. Noi tutti sappiamo che ci sono a volte delle lotte per avere la stanza migliore, la scrivania collocata nella maniera nel posto più luminoso, eccetera, oppure che queste vengono assegnate con criterio della seniority o criterio della gerarchia. È sempre assegnazione degli spazi a persone. Nell'ottica dello smart working, gli spazi sono assegnati e utilizzati alle con riferimento alle funzioni, non con riferimento alle persone. Quindi una stanza può essere usata per incontri informali, per azioni di rappresentanza, per gruppi di lavoro che mettono a punto i risultati conseguiti ed elaborati con lavoro a distanza. E quindi al limite le scrivanie dovrebbero essere pulite. Infatti certe aziende hanno predisposto gli armadietti dove ogni lavoratore, ogni impiegato, ogni dipendente raccoglie le sue cose, e nel momento in cui deve utilizzare la scrivania apre l'armadietto, prende le sue cose e sta nella scrivania, dopodiché ripiega il materiale su cui lavora, lo ripone nell'armadietto e la scrivania può essere utilizzata da altri. Grazie. Professor Fadda, sì, dobbiamo interromperla, ma abbiamo aperto peraltro un dibattito che si sta svegliando adesso fra i nostri ascoltatori, fra chi è, appunto, vede prevalentemente il lato negativo di tutto questo, ma non sarà l'ultima è volta, un dibattito apertissimo. Fadda, che parliamo di smart working, com'è, come lo facciamo, come dovremmo invece farlo. La ringraziamo, ringraziamo Sebastiano Fadda, professor Sebastiano Fadda, presidente dell'INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Buongiorno e grazie. A presto. Grazie a lei, buon lavoro. E domani, domani andiamo un po' a scrivere la scaletta di Investire Informati, dai. Domani investiamo informati, sì, sì, sì, sì. Programma realizzato in collaborazione con INAPP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.